Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Come vi ho più volte promesso nel corso della settimana, questa settimana la chiudiamo con un'analisi di quanto accaduto sui mercati. Le borse hanno inanellato una serie di sedute negative, un paio anche pesanti, su timori già noti che però si sono riaffacciati con prepotenza. Il timore di una ricaduta recessiva, il timore di nuovi problemi di liquidità per le banche, il timore per la tenuta del debito sovrano di alcune economie dell'Eurozona. Questa settimana le agenzie di rating hanno di nuovo bersagliato la Spagna. Una settimana nera, dicevamo, che ha visto andare in fumo solo nella giornata di martedì 145 miliardi di capitalizzazione, altri 118 ieri, ed è stata una settimana che ha archiviato così un semestre che è stato molto più incerto dello stesso periodo dello scorso anno, quando le borse hanno ripreso a correre confidando in una ripresa economica più sostenuta. Per questa ripresa invece, a quanto pare, questa settimana molti indicatori lo hanno confermato, non ci sono ancora le condizioni, e soprattutto per tutto l'inverno ci ha accompagnato la crisi greca e il pericolo di un domino europeo, l'effetto PIGS. E allora, visto che archiviamo questo semestre, con che occhi guardiamo al prossimo? E come al solito cercheremo di darvi così anche delle linee guida per orientare al meglio. È molto difficile farlo, però tenteremo di farlo stamattina. Il vostro risparmio, i nostri interlocutori di oggi: Giuseppe Marzi, amministratore delegato di Schroders Italy SIM, responsabile del private banking. Benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Nostra Cassandra preferita, sì, perché mi accusa sempre di chiamarlo quando le borse scendono pesantemente, e non abbiamo smentito questa nomea che ormai si è fatto, e quindi però insomma speriamo magari di chiamarla anche in occasioni migliori. Paolo Federici, responsabile della distribuzione di Fidelity International in Italia, bentornato anche a lei. Buongiorno Deborah. Prima volta che l'ho chiamato invece non era particolarmente negativa, adesso vediamo se i ruoli si invertono. E comunque, microfoni aperti come sempre ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, per intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349-238-6666. E questa giornata come si è aperta? Allora, dopo i cali di ieri si era aperta bene, qualche indice guadagnava mezzo punto percentuale, poi hanno rifatto marcia indietro, hanno riperso tutto, adesso tentano di nuovo di recuperare, ma vedo che non c'è una grande convinzione rispetto a questo recupero. Probabilmente ci sarà una direzione chiara nel pomeriggio alle 14.30, quando dagli Stati Uniti arriverà il dato sulla disoccupazione, sulla creazione di nuovi occupati. Non ci sono buone prospettive, almeno a giudicare dagli indicatori anticipatori che sono stati diffusi in settimana. Ieri abbiamo avuto i sussidi settimanali alla disoccupazione, due giorni fa altre statistiche pubblicate da una fonte autorevole, almeno il mercato la interpreta così, l'agenzia ADP. Non sembra che in giugno l'economia americana sia riuscita a fare molto, e poi sono tornate a crollare le vendite, le compravendite nel mercato immobiliare, per cui davvero giugno potrebbe essere stato un mese piuttosto pesante complessivamente. Comunque, Parigi più 0,29, Francoforte più 0,29, Londra un po' meglio, guadagna mezzo punto percentuale, Milano più 0,24, questo più 0,24 si deve a Pirelli che guadagna due punti con Saipem, un punto e mezzo di rialzo per Tenaris, per Azimut, per Luxottica. In rialzo di un punto abbiamo Exor e Fiat, nonostante lo sfascio del mercato automobilistico invece in giugno. Snameret Gas più 0,9, Eni più 0,7, i cali più forti. Invece i cali sono particolarmente decisi su Mediaset, che perde l'1,39%, Parmalat meno 1,32, calo di un punto per Geox, Unipol meno 0,7, meno 0,7 anche per il Banco Popolare e per Monte dei Paschi. Stamattina su queste due banche, anzi su Monte dei Paschi e sulla Popolare di Milano, i riflettori del Financial Times, che sostiene che avranno bisogno di ricapitalizzarsi pesantemente al termine dei cosiddetti stress test. Magari anche su questo ci soffermeremo stamattina con i nostri ospiti. Intanto, di tutto questo, l'euro ne approfitta per riconquistare la soglia di 1,25 sul dollaro. Questa è la giornata di oggi, ma sentiamo un po' in borsa cosa è accaduto negli ultimi giorni. È stata ancora una volta una settimana difficile, all'insegna della volatilità, quella che si chiude oggi per le borse europee. Ad aggiudicarsi la maglia nera è stata la giornata di martedì, quando le sole borse del vecchio continente hanno mandato in fumo oltre 145 miliardi di euro e i titoli di Stato europei e americani si sono avvicinati ai minimi storici. Sotto pressione anche l'euro, sceso nella stessa giornata ai nuovi minimi nei confronti di yen, dollaro, franco svizzero e sterlina. A trainare i listini al ribasso sono stati soprattutto i titoli bancari alla vigilia della scadenza del prestito da 442 miliardi di euro varato l'anno scorso dalla BCE per sostenere la liquidità del sistema. E proprio i dubbi sulla tenuta di quest'ultimo hanno allarmato gli investitori, in parte tranquillizzati il giorno successivo grazie al risultato migliore delle attese dell'asta a tre mesi varata dalla stessa BCE. Un fattore che ha consentito ai bond di Spagna, Grecia, Portogallo di recuperare terreno. Oltre ai timori riguardanti il debito pubblico di Eurolandia, sono giunte tuttavia nuove preoccupazioni dalla frenata dell'economia cinese, circostanza che in questo caso ha pesato in maniera particolare sulle materie prime. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Io vedo già stamattina, non sempre quando esaminiamo il quadro di borsa c'è un grande intervento da parte degli ascoltatori, invece ci sono certe giornate in cui cominciano a bussare alla porta molto presto, soprattutto cominciano a bussare al nostro centralino. Ci fa piacere, stamattina abbiamo già qualche ascoltatore in attesa, però volevo cominciare la nostra chiacchierata con gli ospiti di Salvadanaio di questa mattina. Marzi, io sono stata molto colpita da quello che è successo sui mercati nella giornata di martedì. Dicevamo 145 miliardi di capitalizzazione andati in fumo, perché improvvisamente gli operatori si sono svegliati e si sono accorti che nel giro di un paio di giorni la Banca Centrale Europea avrebbe richiesto indietro molto denaro prestato nell'ultimo anno al sistema bancario europeo, e qualcuno ha detto chissà se le banche saranno in grado di fare a meno di questi rifinanziamenti, o saranno appunto in difficoltà, saranno costretto di nuovo a mettere in campo iniziative per così non prestarsi denaro fra di loro e per comunque mantenersi del denaro in casa. In sostanza, tutto questo poi non si è verificato, ma come mai il mercato se ne accorge due giorni prima? Voglio dire, anche venerdì scorso, giovedì della passata settimana, le condizioni erano queste. Che cosa ha scatenato quel disagio del mercato di martedì scorso? Ma devo dire la verità, io non lo so. Posso solo immaginare che ci sia stata una speculazione su possibili magari rumors che viaggiavano sul mercato, che potevano in teoria dare luogo adito a una situazione di liquidità attesa sulle banche europee, cosa che non c'è. Io direi che proprio la liquidità è l'ultimo dei problemi in questo momento sul mercato, ce n'è in abbondanza, basta vedere anche il tasso Euribor. Io credo che la situazione attuale sia un po' diversa. Molti vogliono far tornare la situazione attuale a quella che c'è stata nel 2008. Nel 2008 c'è stata una vera crisi di liquidità. Qui invece c'è forse una crisi di credibilità, forse. E quindi quello che dicevi prima sul capitale delle banche è quello che tutti si chiedono. Si chiedono: ma il capitale delle banche è sufficiente per dare fiato all'economia? Perché non scordiamoci che l'economia poi sta in piedi anche sul credito, no? E io quello che posso vedere in questo momento è che le banche ancora fanno fatica a dare credito a chi ne ha veramente bisogno, cercano di darlo a chi non ne ha bisogno, però questo non è il momento per fare una situazione del genere, anche perché voglio dire, i bilanci bancari probabilmente hanno ancora delle sofferenze che sono tutte da verificare, soprattutto le banche spagnole eccetera. Quindi io vedrei proprio veramente la fine del tunnel nel momento in cui c'è questa benedetta ricapitalizzazione delle banche, oppure c'è una situazione di crediti in sofferenza molto più chiara di quella che in questo momento il mercato ha. Paolo Federici, in settimana il mercato è apparso particolarmente preoccupato anche da alcuni indicatori economici che sono stati pubblicati dalla Cina. Poi alla fine della fiera ci raccontano che tanti altri paesi emergenti comunque stanno avendo una ripresa e un andamento dell'economia molto importante. Questo accade in Brasile ma anche in altre parti del mondo, eppure se è la Cina a deludere il mercato va a picco. Perché? Ma diciamo che questa è una fase dell'economia in cui si sente spesso ripetere che il grosso della crescita verrà da mercati emergenti. Ora è chiaro che questo è un mercato globale, quindi pensare che ci sia qualcuno che cresce quando tutti gli altri non crescono è un po' difficile da immaginare, sembra quasi più scolastico che realistico, anche perché poi questi viviamo tutti di esportazioni, l'Italia è un paese di forte esportazione, quindi non si può pensare a una ripresa vera senza ad esempio un mercato statunitense che possa crescere. Sono favoriti sicuramente in questa fase quei mercati che hanno un consumo domestico importante, quindi la Cina. Perché viene guardata? Perché la Cina è un po' la prossima frontiera. Si dice di solito che l'India ha un vantaggio da questo punto di vista rispetto alla Cina, perché consuma internamente una gran parte di quello che produce, diversamente dalla Cina che di fatto lo esporta. Il fatto che i cinesi possano comprare di più di quello che producono, vedi anche il tema dell'apprezzamento della valuta che è in discussione in questo periodo, apre potenzialmente un mercato di 1 miliardo e rotti di consumatori. Quindi viene guardata perché? Viene guardata per questo. Il Brasile è un'altra bella storia, ma non ha 1 miliardo di persone, non ancora perlomeno. Quindi questa è un po' la ragione per cui viene guardata. E la nostra sensazione è che comunque il mondo è più interconnesso di quello che si racconta. Poi alla fine l'Europa ha uno svantaggio, indubbiamente soffrirà a breve, però anche una situazione ad esempio di euro più debole rispetto a prima. Altro tema da sfatare: l'euro non è debole, l'euro è più debole di prima, ma semmai c'era un tema di sopravvalutazione, rispetto al dollaro. Oggi andate a chiedere a un imprenditore che esporta all'estero se tutto sommato si duole o si bea di avere un euro che finalmente, fra l'altro, è alla parità teorica oggi, cioè quindi è esattamente il valore giusto, non è neanche sottovalutato da questo punto di vista. Chi esporta oggi è ben felice di farlo, quindi si può guardare il mondo con occhi probabilmente un po' disincantati, quindi crescita ruggente no, ma noi riteniamo che come ci troviamo in una situazione non tanto di decrescita, ma in una situazione di rallentamento della crescita che era totalmente prevedibile. Prevedibile, infatti. Allora, io devo già fermarmi perché ho la prima pausa, un po' di pubblicità, il meteo e vedo anche qualche messaggio, visto che di euro abbiamo parlato fino a questo momento. Un ascoltatore dice: come me le borse, se le borse sono a picco, l'euro in risalita rispetto agli ultimi 2 giorni fa, ma ieri ha toccato i nuovi minimi sul franco svizzero e ha recuperato poco sul dollaro e comunque viaggia ancora sui minimi da 4 anni a questa parte, anche se poi c'è tutto il concetto invece del corretto apprezzamento che Paolo Federici appunto esprimeva adesso. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, stavo così dilettando gli ospiti di Salvadanaio di questa mattina con i messaggi degli ascoltatori che ci stanno arrivando, ma non ho ancora fatto in tempo a leggere loro il messaggio di Paolo da Alba, e quindi leggo a Paolo Federici e Giuseppe Marzi in diretta questa considerazione. Lo seguo con piacere le vostre trasmissioni, Salvadanaio e Focus Economia, ma non riesco a capire i criteri di scelta degli ospiti ogni volta che c'è un crollo, perché ovviamente, giustamente, l'ascoltatore si chiede, visto che chiamate sempre gli stessi, non sanno da cosa possa essere stato determinato. Vabbè, questo mi sembra un'interpretazione un po' frettolosa, perché le loro spiegazioni le hanno date come: sono operatori di borsa, cioè quelli che comprano e in particolare vendono, o si occupano di altro? Non sono loro gli istituti finanziari che determinano i valori di borsa? Cosa hanno fatto nelle giornate passate? Hanno venduto? Se sì, perché? Marzi, visto che ho cominciato con lei prima, ci dica un po' cosa hanno fatto i vostri fondi in queste giornate? Non abbiamo venduto. Io credo che basta guardare anche il volume delle borse, non sono stati dei volumi enormi, quindi gli investitori istituzionali che fanno gestione essenzialmente sui dati economici non hanno venduto, mentre il mercato comunque è sceso, quindi chi sta dietro il mercato non è così facile da sapere, così come non si sa chi sta dietro le valute, questi movimenti valutari che francamente sono difficilmente spiegabili se non ex post con scuse o ragionamenti particolari. Il mercato è un insieme di operatori, e molte volte gli operatori che in questo mercato fanno un lavoro di medio-lungo termine non sono quelli che invece generano eventuali cadute di questo mercato. Certo, poi c'è chi ha magari la capacità di poter dare il via ad una serie di notizie, scatenare come per esempio il panico sull'euro, come è successo qualche mese fa con queste indicazioni che arrivavano dagli Stati Uniti, di metterlo sotto scacco, ma qui stiamo veramente parlando di speculatori veri e propri. Paolo Federici, Fondi Fidelity invece cosa hanno fatto in quest'ultima settimana? Si sono comunque, se non hanno venduto, riaggiustati nella loro composizione, approfittando magari di qualche occasione d'acquisto, perché poi il tema è anche quello, c'è qualcuno che, per chi vende molto, dall'altra parte c'è anche chi acquista sulle occasioni che si creano. E questo è un punto fondamentale. Diciamo rapidamente cos'è un fondo. Un fondo è raccoglie il patrimonio di tanti clienti e, nel caso almeno dei fondi di Fidelity, ha il dovere di essere permanentemente e completamente investito. il che vuol dire che per noi essere in liquidità, a parte un paio di fondi che hanno una struttura un po' diversa, non è un'opzione. Quindi noi, se una cosa non ci piace più, la dobbiamo vendere, ma nello stesso momento ne dobbiamo comprare un'altra. Quindi non saremo mai di quelli che comprano o vendono, comprano qualcosa perché hanno appena venduto qualcos'altro. Poi diciamo pure che tra gli operatori, lo diceva bene Marsi prima, ci sono due categorie, ci sono gli speculatori, cioè quelli che all'interno della giornata magari fanno una serie di cose, addirittura amplificano una serie di spostamenti della borsa, o addirittura li creano entro certi limiti, e quelli che invece hanno l'obiettivo di gestire il risparmio in una logica un pochino più a lungo termine. Fidelity è sicuramente la seconda categoria, quindi cerca più che altro di difendere il patrimonio da queste oscillazioni, ma di solito non gioca più di ad avvantaggiarsene. Quello che ha fatto in questi giorni è stato entrare su una serie di titoli che a noi piacciono, che pensiamo abbiano una buona possibilità. Di solito noi ragioniamo su un orizzonte circa di 2 anni, quindi se da qui a 2 anni un titolo ha una possibilità di crescita di almeno il 30%, è un titolo che ci piace. Di solito non lo compriamo se lo stanno già comprando tutti. Se però vediamo che scende a un prezzo tale da essere da diventare un'opportunità, in questo siamo anche molto indipendenti. Quindi per uno che vende in preda al panico, c'è uno, e in quel caso sarebbe noi, che ha il fegato di vendi, che compra, sì. Siamo nella stagione dei saldi, beh, se s'aprono i saldi, ecco, noi volentieri infatti, li compriamo. Infatti, allora direi di aprire il cancello ai nostri ascoltatori come promesso poco fa. Cominciamo con Gabriel d'Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno Deborah. Sì, ci dica. Guardi, io vi seguo spesso e il concetto dei vostri tecnici sono molto chiari. Il fatto è che, come mi senti, sono un oriundo argentino. Sì. Ah, che bello. Molto chiaro i periodi di crisi, diciamo che mi sono fatto grosso sotto la crisi. Guardi, una crisi grossa vostra la stiamo pagando anche noi italiani da 10 anni a questa parte. Lo sa bene perché ne parliamo tanto spesso. E quindi anche questo è una ferita aperta anche per me, perché essendo oriundo, figlio di italiani con spagnoli, diciamo è una macchietta che non mi rappresenta. Ecco. Certo. E quindi il suo concetto sul mercato, Gabriel, è un investitore? Perché osserva anche l'andamento della borsa? Perché è un investitore, oppure così semplicemente un lettore di giornali sulle tematiche finanziarie, le piacciono per che cosa? Sì, guardi, io ho una preparazione universitaria in architettura in particolare. Mia moglie ha un negozio, io faccio l'operaio e ho un secondo lavoro come animatore. Quindi diciamo che ho diversificato fin dal lavoro. Esperienza insegna in Argentina, insomma, no? Il fatto rimane questo, che sebbene il mercato è globale, in questo periodo di crisi lo ha dimostrato, le regole non lo sono, e quindi il mercato, quindi io, se avessi in questo momento dei soldi, andrei dove mi conviene di più. Questo crea uno spostamento di capitali non indifferente a livello mondiale, no? Ora, io non credo che si potrebbe fare un'economia unica, non credo questa teoria, però se può rafforzare, almeno partendo dall'Europa, cioè l'Europa nel momento di crisi non dovrebbe correre ognuno per conto suo. Guardi, su quello che è successo con la Germania qualche mese fa abbiamo parlato tante volte, Gabriel. Io guardi, la fermo solamente perché ho altri ascoltatori in attesa, però lei ha introdotto il tema delle regole e questo approfondisco con Giuseppe Marsi e Paolo Federici, perché comunque al Congresso americano sta passando la riforma finanziaria, sarebbe veramente un atto storico per quel sistema. In ogni caso non è un problema che poi gli governi e le economie non si stanno ponendo in questo momento. Di fatto, quando è già difficile farla passare, come abbiamo visto in America, all'interno di un tessuto economico ben consolidato, figuriamoci poi istituire un sistema di regole che metta d'accordo un po' tutti. Però il tema delle regole, insomma, ne stiamo parlando da 4 anni, Marsi. Beh, io credo che nel 2008 il risultato è che l'autoregolamentazione del mercato si è visto che non è possibile, no? Le regole nuove le staremo a vedere, perché finché non sono passate non capiamo esattamente che cosa ci sarà effettivamente. Però una delle regole cardini, che doveva essere quella del togliere la possibilità di fare grande leva, mi sembra un po' spuntata, e quindi io credo che questo sia uno dei problemi, no? Noi ci rendiamo conto che una banca centrale non riesce a difendere, se volesse, la propria valuta. Una banca centrale come quella europea in teoria potrebbe anche non avere il fiato di, come posso dire, poter difendere il debito di tutti i paesi che ne fanno parte. Quindi un po' di regole ci vogliono, io credo, dovranno essere fatte. Il mio timore è che la non regolamentazione di solito produce un'eccessiva regolamentazione. Faccio un esempio, forse al posto di avere tutte delle regole sul risparmio gestito, basterebbe dire che se una società perde al di là di quello che il cliente è disposto a perdere, paga la differenza. Questa è una regola aurea molto semplice che potrebbe in teoria sostituire 200 regole che sono difficilissime da implementare, difficilissime da controllare. Quindi ecco il fatto delle regole, le regole di per sé non sono sufficienti, secondo me ci vuole buon senso anche di chi le fa. Vabbè, però allora stamattina questo è un altro bel argomento che ci presterebbe il fianco per un'altra trasmissione, però visto che dobbiamo tornare ad analizzare un po' i mercati per dare qualche indicazione di comportamento anche ai nostri ascoltatori, sentiamo un po' sul terreno pratico le scelte di investimento che i nostri amici che ci seguono da casa stanno facendo in questo momento. Allora Giampaolo da Pisa, buongiorno a lei. Buongiorno, allora io avendo la pensione bassa e lontano ho investito una parte dei miei risparmi, 50.000 euro su RBS Scotland, è inglese, sì. Sono consapevole dei rischi, però insomma so che c'è lo Stato inglese di mezzo, ha preso l'80%, questo mi può dare un po' di tranquillità? Ascolto la risposta per radio. Grazie. Allora lei capisce, Giampaolo, che noi abbiamo due rappresentanti di due case di investimento differenti, per cui adesso lasciare esprimere loro un giudizio specifico sull'emittente anche di queste obbligazioni è difficile, non è corretto che io faccia loro questa domanda, però un discorso globale intanto sulla sua propensione al rischio si può fare sicuramente, diceva Paolo Federici prima. Allora intanto speriamo che il nostro ascoltatore, ma mi pare che lo abbia precisato, non abbia investito interamente il suo risparmio su un unico prodotto, e questa è già una prima considerazione. Sì, e poi sicuramente come regola di massima vale soprattutto in questi mercati, ma abituiamoci a far sì che questa sia la regola che ci guida nei prossimi 5-10 anni, non soltanto oggi. Questo c'è sicuramente un passaggio rispetto a un emittente, a volte in questi magari emittenti un po' meno noti, magari al pubblico italiano, vengono scelti anche per questioni di rendimento, di cedola, eccetera. Allora lì la riflessione può essere quella di cercare di avere un portafoglio bilanciato, un portafoglio che non sia fatto di un solo titolo, che chiaramente diventa molto legato ai destini poi del soggetto che in qualche modo li emette, sia per i titoli cosiddetti corporate, che oggi ahimè anche per i titoli di Stato, questo diciamocelo. Probabilmente ha senso lavorare attraverso o un paniere ben diversificato, oppure, non lo dico per conflitto di interessi, ma davvero attraverso un fondo, nel senso che il fondo che ha il minor numero di emissioni ne ha comunque svariate decine, quindi rendiamoci conto che qualunque problema possa avere un emittente o una singola emissione, questo viene diluito in una maniera incredibile. Siamo vicini all'estate, siamo pratici, molti di noi non vorrebbero guadagnare più di tanto in agosto, ma almeno vorrebbero non dover come dire, passare un'estate preoccupandosi, esattamente. Poi agosto da parecchi anni ci ha riservato sorprese non sempre piacevolissime. Ecco, io quello che consiglierei è di riguardare insieme, se uno fa da sé, magari informandosi attraverso i media oppure attraverso i propri consulenti, il proprio portafoglio, e magari spostare un po' di amministrato, cioè di singoli titoli, in cosiddetto gestito, cioè in prodotti che hanno una diversificazione molto molto maggiore, andando in vacanza un po' più tranquillo. L'idea che si aveva una volta del io disinvesto, vado in vacanza e poi torno, oramai non esiste più, perché agosto potrà avere sorprese negative, così come potrebbe averne invece di fortemente positive, difficile anche proprio da prevedere, si è detto prima. A questo punto il punto non è più esserci o non esserci, ma è come ci si può essere, perché questo è il nome del gioco, signore, abituiamoci, l'abbiamo visto oggi a sessioni di borsa in cui in un giorno il segno può cambiare 3-4 volte. E questo vale anche in agosto, varrà anche per i prossimi 6 mesi questo? A nostro avviso assolutamente sì, siamo, l'abbiamo detto, in una fase di rallentamento della crescita. Il rallentamento vuol dire riaggiustamento delle aspettative, non è tutto nero, però se qualcuno pensa di poter continuare a vedere l'azionario crescere al 50% ogni anno, no, la crescita dell'azionario a lungo termine è 7%. Quindi evidentemente c'è un momento, c'era qualcosa che non andava, insomma. La cosa bella di tutto questo è che si cominceranno a vedere titoli buoni e titoli meno buoni, che se volete è un po' il mestiere che facciamo così. Giuseppe Marsi, la Grecia adesso è un po' più silenziosa dei mesi passati, ha ricominciato invece a preoccuparci un po' quello che sta accadendo in Spagna, anche se in settimana abbiamo avuto un'asta di titoli a 5 anni che sembra essere andata piuttosto bene, la domanda è stata quasi doppia rispetto all'offerta dello Stato, del governo iberico, e però possiamo dirci tranquilli completamente? Io non credo ancora, credo che ancora il tema del debito sovrano dei paesi dell'Eurozona continuerà a far parlare di sé per tutto il prossimo semestre, o no? Il debito, noi parliamo del debito dell'Eurozona, ci scordiamo del debito americano e del debito giapponese. Il debito giapponese aggregato è 4 volte il PIL, quindi è molto più grande di tutti i debiti che noi abbiamo in mente, quindi questa è una situazione globale. Gli stati sono indebitati, lo sappiamo tutti. E come si ripaga il debito? Si ripaga il debito o cercando di crescere economicamente o rinegoziandolo, cosa che può portare a una grande recessione, oppure con l'inflazione. Queste sono i tre modi per ripagare il debito e dipendono molto dalle scelte politiche, non certo dalle scelte di noi investitori. Quindi io direi e consiglierei a tutti di vedere e analizzare attentamente quali saranno le scelte politiche che ci saranno nei prossimi mesi. Quindi anche i piani di austerità che sono già stati messi in campo, per esempio dalla Gran Bretagna, che è molto molto rigido. Sì, ma i piani di austerità, visto il debito così consistente, saranno dei piani di austerità giusto per non fare aumentare di molto il debito, ma non risolve il problema di come ripagarlo, no? Quindi questa è una partita, direi, molto molto importante, che è una partita politica. È una partita politica perché all'interno di questa partita, non scordiamoci, c'è i paesi che generano risparmio, che sono la Cina e i paesi emergenti, e ci sono le cicale che invece se lo mangiano questo risparmio. Quindi ci sarà una serie di riaggiustamenti che secondo me andranno essenzialmente sui cambi. Quindi noi vedremo, a mio parere, delle situazioni di cambi che cambieranno, mi spiace questo bisticcio gioco di parole, e delle situazioni di deflazione che magari diventeranno un po' più inflattive, invece dove c'è in questo momento più inflazione ci sarà un po' più deflazione. Però ecco, non vorrei entrare in cose troppo tecniche. Guardiamo a che cosa faranno i politici, non scordiamoci che non si ripagano i debiti degli stati velocemente, perché questo sarebbe impossibile, e bisogna vedere se i politici veramente impronteranno le loro politiche, scusatemi ancora questo gioco di parole, sulla crescita oppure su un falso riequilibrio dei conti, che secondo me è un palliativo, lo devono fare, ma non è il nodo della questione. Paolo Federici, alla luce di queste riflessioni che faceva Marzi, cosa ci mettiamo dentro un portafoglio di titoli obbligazionari che possa conservare il capitale investito, perché poi alla fine della fiera io credo che la necessità di tutti quelli che ci ascoltano sia proprio questa, chiaramente veder crescere il proprio capitale, ma tutto sommato con i chiari di luna che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, a questo punto l'obiettivo è conservarlo il più lungo possibile. Assolutamente. Allora, la prima lezione che abbiamo imparato sotto l'ombrellone è quella della liquidità e della liquidabilità. Quindi la prima cosa è averne intanto tanti, quindi meglio ancora se attraverso un fondo, e dal nostro punto di vista ha senso avere in portafoglio magari di questo fondo anche titoli di Stato, perché ci possono piacere o meno, sicuramente non sono più tutti uguali, però hanno un evidente vantaggio, nel senso che sono estremamente liquidi, e questo per chi può aver bisogno di avere indietro i propri soldi può contare qualcosa in situazioni di mercato estreme. Quindi suggeriamo più che altro prodotti che abbiano una componente di debito sovrano, scelta accuratamente, sicuramente la Germania la farà da padrona. Noi non siamo per esempio per niente negativi rispetto al BTP, lo dico chiaramente a tutti, non crediamo assolutamente che l'Italia fallirà, crediamo che invece nell'allargamento degli spread si generano delle opportunità per chi poi sappia veramente misurare quanto è serio un problema. L'Italia tutto sommato è entrata in crisi, ahimè è abituata alla crisi da un certo punto di vista, è entrata in crisi in alcune condizioni, le condizioni sono tra quelle peggiorate meno rispetto agli altri, quindi noi diamo fiducia al BTP in questo senso, e con anche dei titoli corporate però scelti con attenzione. Quella parte del portafoglio che tecnicamente viene chiamata yield, cioè di titoli a elevato tasso, attenzione che può essere interessante in questo periodo, ma per una ragione semplice: si è detto bene prima che le banche in questo momento fanno fatica a prestare soldi e tendono a darle chi li ha già, qualcuno direbbe che forse è anche quello che facevano prima, però sicuramente è vero che oggi tante aziende devono andare direttamente sul mercato a chiedere soldi. A questo punto ci sono tante aziende valide che si sono ristrutturate, che danno dei bei tassi, perché non è facile in questo periodo raccogliere soldi, e che possono offrire delle missioni molto molto interessanti. Ho visto Marzi che annuiva rispetto alla sua riflessione sulla sull'assoluta improbabilità di un fallimento italiano, peraltro questo è un tema che con lui abbiamo anche affrontato in altre circostanze, e mi ricordo che lui con grande enfasi focalizzava la sua attenzione sul tema del debito privato delle famiglie e del risparmio molto elevato, tema che poi è tornato con il nostro governo molto prepotentemente, giustamente, anche a Bruxelles. Abbiamo fatto valere anche questa qualità appunto del nostro paese. Allora andiamo agli ascoltatori, figuriamoci, abbiamo 3 minuti di tempo, 4 ascoltatori in attesa, non ce la faremo mai. Aldo e Gianni li sento al volo perché hanno una domanda simile. Alto, rapidissimo, se ce la fa, grazie. Va bene, desideravo sapere se il trend della borsa, che dall'anno scorso fino a poco tempo fa era positivo, deve considerarsi ancora positivo, e poi se le materie prime faranno la parte più importante in questo trend. Attualmente il valore della borsa è sotto al valore della media ponderata. Allora guardi Aldo, mi fermo, siccome abbiamo già riflettuto abbastanza sul tema della borsa, in questi primi 6 mesi dell'anno ha praticamente annullato tutti i suoi guadagni, quindi non è che stiano andando poi proprio bene le cose rispetto a quello che ci eravamo abituati a vedere negli ultimi 18 mesi. Mi soffermo sul tema delle materie prime, ci metto insieme anche la domanda di Gianni della provincia di Vicenza. Gianni? Sì, buongiorno. Rapidissimo. Sì, rapidissimo. Chiedevo una cosa, le società di raffinazione del petrolio, dal poco che so, se il dollaro diminuisce e anche il prezzo del petrolio rimane stabile, dovrebbero guadagnarci. Però io ho visto che onestamente non ci hanno guadagnato, anzi continuano a perdere. Gianni, certo, perché se magari i paesi che erano prima tanto che necessitavano tanto di materie prime cominciano, ne chiedono meno adesso perché non c'è crescita, comunque qua dovremmo veramente affrontare uno scenario economico globale. Però il tema delle materie prime, Marzi, la appassiona? Ma il tema delle materie prime lo affronterei in questo momento, in questo modo. Le materie prime iniziano ad avere importanza, non so se dire ahimè o per fortuna, anche nei portafogli di investimento e quindi non solo negli utilizzatori delle materie prime. Quindi questa cartolarizzazione delle materie prime potrebbe portare ad oscillazioni dei valori che possono essere molto elevati. Dico questo perché è naturale che facendo seguito a quello che dicevo prima, questa è una situazione che può in teoria portare a una recessione ulteriore oppure prima o poi a un'inflazione come posso dire, mancanza di fiducia verso la carta moneta. In questo secondo caso, ad esempio, la finanziarizzazione, la cartolarizzazione delle materie prime potrebbe essere gigantesca. Quindi io quello che dico è che le materie prime è un po' come le valute. Le valute fino a un certo punto rappresentavano gli scambi commerciali, poi non l'hanno più rappresentati. Le materie prime corrono il rischio di fare la stessa fine. C'è un'ultima domanda di Roberto da Milano che non faccio intervenire, la leggo io. Ha in portafoglio azioni Nasdaq in dollari, quali prospettive? Roberto, adesso magari sarebbe stato necessario sentirla per spiegare un po' meglio la sua domanda. Federici, le do 10 secondi di tempo anche se sono fuori tempo massimo. La tecnologia americana piace ancora? La tecnologia piace sempre, mi verrebbe da dire. Sicuramente l'America in questa fase sta scontando una politica più espansiva di aiuto dal governo. Questo potrebbe aiutare, bisognerebbe sapere il tipo di titolo per sapere dove fa il suo fatturato. Se lo fa nei mercati emergenti probabilmente crescerà ancora. Benissimo, grazie molte ad entrambi per essere stati con noi, Giuseppe Marsi di Schroders, Paolo Federici di Fidelity. Salvadanaio termina qui, noi ritorniamo naturalmente lunedì, parleremo di golf e badanti. Buon fine settimana a tutti. Salvadanaio. We'll be right back.